Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Cul-de-sacs. speed. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. Hoods up, poetry from the cul-de-sacs. Bats out, anarchy with the note attached. Glass beats, window seats in the photographs. Tattoo lyrics from the tatty boys are singing bam, the dab, the dab. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. La seconda parte di Eclettica si è aperta con la cover di Radioactivity estratta da Late Night Tales, in questo caso nelle mani di Fatboy Slim. Late Night Tales, che esce sempre come compilation dei brani preferiti da un artista, in questo caso, oltre a tanti brani in versione originale, il 15 di ottobre Late Night Tales è uscito anche con Radioactivity, la cover del brano dei Kraftwerk, che si è poi proseguito con una band di Seattle di cui io, e ammetto la mia colpa, mi sono reso conto solo al quinto album, ovvero sia Every Scene Needs a Center. Sto parlando dei Tallycraft, che ci siamo appena ascoltati proprio con il brano che me li ha fatti notare, The Punks Are Writing Love Songs. E si passa ora a Polly Polsma, della quale già ci siamo ascoltati più di un estratto dal suo ultimo disco, ma questo ha una storia particolare. Infatti è stato pubblicato il 1° di novembre come nuovo singolo, però nel giro di qualche ora Polly stessa si è accorta di un errore fatto dalla sua casa discografica ed è andata a chiedere scusa sulle pagine del suo sito personale. Infatti il singolo è stato pubblicato con altre due canzoni già contenute all'interno dell'album e non con due inediti come avrebbero dovuto essere. Quindi chiede scusa, ritira il disco dai negozi e lo fa uscire con i due brani inediti. Noi ce lo ascoltiamo qua in Eclettica, si tratta di Where I'm Coming From. La frontiera si annunciava con una fila di ambulanze parcheggiate nello spiazzo laterale. Gli autisti se ne stavano appoggiati ai cofani. Qualcuno fumava o beveva da una lattina, scambiando parole con aria annoiata. Aspettavano i soldati da riportare alla base di San Diego, come ogni domenica mattina. Poco prima dell'alba sarebbero arrivati l'uno dopo l'altro sui taxi di Tijuana, spesso così ubriachi da venire scaricati sull'asfalto per restarsene lì, semicoscienti, finché gli infermieri delle ambulanze non li afferravano per braccia e piedi, scaraventandoli senza troppi riguardi sulle lettighe. Era la solita routine della notte tra il sabato e la domenica. Bart Croce abbassò il finestrino e osservò per qualche istante le ambulanze in fila, mentre davanti a lui un enorme autosnodato Kenworth si fermava al casello. Questo era l'incipit di Demasiado Corazón di Pino Cacucci. Close your eyes, we'll sound the white old souls all wrapped in wonder. The arc of them, a stitch of vein, reflecting on each other. Communicating down the line with hints and curves appearing. A measured ground, the plotted stars spilling out. Songs like cables wailing, a twitching gem, a rush of light, the resonating outbursts. A dream of clocks, a dream of clowns, all sounding out together. The click of hearts, and the hours lost as I breathe on. Colors breaking through, I don't know how long now. This babbling, slipping tongues all fused into one. So the sound of distance catching, is the sound of distance overtaking. All my words and thoughts are failing, but the sound of something being swung. So the sound of but the sound of something being swung. So the sound of this love's captain. The sound of distance overtaken. All my words and thoughts are failing. But the sound of something being swung. So the sound of this love's captain. The sound of distance overtaken. All my words and thoughts are failing. But the sound of something being swung. How could I have been so careless? 1.21 gigawatts! Tom, how am I gonna generate that kind of power? It can't be done, can it? Butch, all we need is a little plutonium. Oh, I'm sure that in 1985, plutonium was available in every corner drugstore, but in 1955, it's a little hard to come by. Marty, I'm sorry, but I'm afraid you're stuck here. Could have killed me if it were not Let's kidnap each other and start singing our song. 'Cause my heart is charged now. Oh, it's dancing in my chest. And I fly and I walk now from the spell. Coming home. Forfora. Prima era solo atterrito dal contenuto della busta gialla. Adesso, invece, tutta la sua apprensione si era concentrata su quella che, in fondo, era soltanto una sgradevole conseguenza dell'intera situazione. E lo specchio non si limitava a rimandargli l'immagine dello scempio, ma gli conficcava nella retina il crollo di tanti mesi di sacrifici, attenzioni, rinunce, rievocandogli tutti i sapori dei cibi che il cervello si era imposto di dimenticare. Sfiorò con le dita tremanti il confine tra il naso e la guancia. Ormai non aveva più dubbi. Era proprio un attacco di fegato. Questo era l'incipit di Forfora e altre sventure di Pino Cacucci. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 2, volume numero 2, indice. Burnt Fried Men con l'aiuto alla voce di Barbara Panther. Canadians, Beirut, Bodies of Water, Siberian, Fatboy Slim a rifare i Kraftwerk, Tallycraft, Polly Polsma, The Sleeping Years, Scout Niblet con l'aiuto di Will Oldham. E infine abbiamo chiuso con i torinesi Disco Drive con un estratto dal loro ultimo album per la Unhip Records, Things to Do Today, estratto dal titolo